lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle 23 alle 2. Ciao a tutti, io sono Alex, Pepos è al Dia del Vetro ad occuparsi della parte tecnica e noi questa sera, come vi avevo già anticipato, la dedicheremo interamente a una mitica band che sabato era in Italia, a Torino, per un mitico concerto. Parleremo del concerto, ascolteremo però soprattutto la musica degli U2. Preparatevi per una grande notte. Tra l'altro devo anche dire che ci sarà come Fergal, che essendo un irlandese doc, ci parlerà del gruppo bandiera della sua terra, è uno dei gruppi suoi preferiti e appunto sarà il nostro ospite d'onore tra poco proprio in studio. È andato a mangiare qualcosina perché ha finito alle 10, giustamente. Allora, come fare per partecipare a questa notte dedicata agli U2? Molto semplice, come al solito, beh, potete segnalarci la vostra canzone preferita del quartetto di Dublino, quindi inviandoci un messaggio SMS al numero 348-6619-461, oppure chiamandoci allo 081-631-631 oppure allo 081-546-1212. E naturalmente vi vogliamo in diretta. Se siete stati sabato al concerto di Torino al Delle Alpi, allora naturalmente dovrete raccontarci com'è stato, quali emozioni vi ha trasmesso questo grande evento, se la band era in forma, se Bono ha cantato, ha stonato in qualche canzone oppure è caduto dal palco, non lo so, insomma, quello che più vi ha colpito di questo grande evento vogliamo che ce lo raccontiate in diretta su Radio Kiss Kiss fino alle 2. Pensate, per 3 ore parleremo degli U2 e ascolteremo la loro musica, quindi 081-631-631 oppure 081-546-1212, o ancora per votare le vostre canzoni preferite degli U2 che poi manderemo in onda e poi tra l'altro proclameremo anche la canzone più amata degli U2, 348, perché lo 0 non si usa più, 348-6619-461 per i vostri messaggi SMS. Siamo pronti per partire? Io direi di cominciare proprio con una grande carica di energia e di adrenalina, il nuovo singolo degli U2 che tra l'altro dà anche il nome al tour, Elevation, su Radio Kiss Kiss per aprire la notte dei miti di lunedì 23 luglio. Quanti erano al Delle Alpi di Torino sabato 21 luglio ad assistere al concerto degli U2, l'Elevation Tour, unica data italiana Beh, dicevano 60.000, molti VIP in tribuna e noi, beh, naturalmente speriamo che qualcuno in questo momento ci ascolti, qualcuno che era tra i VIP o tra i meno VIP al delle Alpi, che ci possa magari raccontare in diretta come è stato questo concerto evento, uno dei più importanti di quest'anno. Bene, si parlerà degli U2, della loro versione live di sabato, della loro carriera fino alle 2 nella notte dei miti, adesso arrivano anche i Gorillaz. U2 sono arrivati a Torino, un concerto annunciato, unica data, biglietti introvabili, e hanno veramente fatto il pienone, il tutto esaurito, 71.000 presenti con VIP in tribuna, tra cui c'era anche Jovanotti, Armani e altre personalità che adesso non sto qui a snocciolare, però sicuramente le ricorderemo. Bene, una serata alla grande che si è aperta con l'Elevation, il pezzo che abbiamo ascoltato poco fa, l'ultimo singolo che dà proprio il titolo a Elevation Tour, proprio il tour che stanno portando in giro per il mondo gli U2. Tra l'altro questa sera saranno a Zurigo, sia questa sera che domani sera. Adesso non si chiede come mai in Svizzera due date e in Italia, dove ci sono 57 milioni di abitanti, soltanto una. Beh, è la loro scelta, evidentemente. Chiedetelo all'organizzatore o chiedetelo a Bono, non lo so. Comunque io direi, per coloro che si sono persi la data di sabato, magari domani c'è ancora la possibilità di raggiungere Zurigo, che poi non è così distante, o ancora seguirli in giro per il mondo. Noi questa sera dedicheremo 3 ore agli U2, perché sono la più grande rock band del mondo e quindi vogliamo in un certo senso celebrarli nel corso della notte dei miti. E come fare per celebrare gli U2? Basta segnalarci le vostre canzoni preferite inviandoci un messaggio SMS al numero 348-6619-461, oppure chiamandoci allo 081-631-631, oppure 081-546-1212, e naturalmente vogliamo parlare anche della dimensione live degli U2. Per tutti coloro che hanno assistito al concerto di sabato, allora, beh, l'invito è quello di parlarcene, di raccontarci com'è stato, quali sono stati i momenti più emozionanti, magari i momenti meno emozionanti, o ancora qualche aneddoto, qualche piccola curiosità. Mentre se qualcuno non è stato sabato al concerto perché magari non è riuscito a trovare il biglietto, ma è stato qualche altro concerto qualche anno fa, bene, allora l'invito è sempre valido, cioè parlatecene in diretta, perché così almeno cercheremo di delineare il mito degli U2 e in qualche modo cercheremo di capirlo meglio. Quindi 081-631-631 oppure 081-546-1212 per essere in diretta con noi e per votare la loro canzone preferita, appunto, degli U2. Adesso un altro pezzo dall'ultimo album degli U2, Beautiful Day, e sabato è stato veramente un beautiful day. U2. The heart is a blue. Take you out. notte dedicata agli U2, una celebrazione postuma. No, attenzione, postuma, cioè dopo il concerto di Torino, dopo il concerto di sabato scorso, dove 70.000 appassionati hanno assistito a veramente un grande evento musicale che praticamente è stato attesissimo da tutti e naturalmente in genere dopo il concerto tutti quanti vogliono parlarne, vogliono rendere partecipi agli amici, ai conoscenti le emozioni provate. Ebbene, se volete farlo proprio in diretta in tutta Italia potete farlo chiamandoci adesso e raccontandoci quello che è successo allo Stadio delle Alpi di Torino quando suonavano gli U2. Quindi chiamateci allo 081 631 631 oppure allo 081 546 1212, quindi se siete stati al concerto o semplicemente per votare la vostra canzone preferita degli U2, che ricordo sarà poi trasmessa se questa canzone è abbastanza votata anche dagli altri, perché noi sceglieremo una scaletta in cui ascolteremo qualcosa degli U2 fino alle 2, ecco, e allora le canzoni che sceglieremo saranno quelle che ci segnalerete con un messaggio SMS oppure chiamandoci. Per gli SMS il numero è il 348-66-19461. Per esempio, leggiamo qualche messaggio. Ciao Mitico, la canzone che preferisco degli U2 sono due canzoni, Mofo e Beautiful Day. Sabato sono stata malissimo sapendo che erano in Italia ed io non potevo vederli. Sara, sicuramente come te molti hanno sofferto per questa cosa, però ecco, se c'è qualcuno che magari in passato è stato ad un concerto degli U2 e quest'anno non c'è potuto essere, può comunque essere protagonista della nostra notte raccontandoci un po' le emozioni degli altri concerti degli anni scorsi. Ciao, sono Valentina da Cagliari, la mia canzone preferita degli U2 è Angels of Harlem. PS, la tua voce è bellissima, vi voglio tanto bene. Grazie Valentina anche per il complimento. Poi la più bella, anzi fantastica, è One, un'altra grande canzone. Vi prego, fateci ascoltare Party Girl perché è un fuoco che pervade l'anima già alle prime note. Nicoletta da Cosenza, PS, siete inimitabili. Bene, insomma, quindi vuol dire che già arrivano i primi messaggi per segnalare le vostre canzoni preferite degli U2. Continuate a farlo, mi raccomando, perché appunto fino alle 2 noi sceglieremo le canzoni più votate. 348-66-19461 per i vostri messaggi, 081-631-631 oppure 081-546-1212 per chiamarci in diretta, quindi votare le vostre canzoni per telefono, ma anche per segnalarci se siete stati al concerto di Torino e quindi raccontarci le vostre emozioni. Quindi siamo partiti con Elevation e Beautiful Day, le prime due canzoni del concerto, hanno suonato proprio queste a Torino sabato sera intorno alle 21. Adesso passiamo con la colonna sonora di Million Dollar Short Hotel, i due. Bergal è qui accanto a me, tra poco farà l'espertone. Beh, come ti senti nelle vesti di espertone, Bergal, eh? Oh, mi fa molto piacere, spero di non deludere a nessuno che magari è più esperto di me, però... No, no, non ti preoccupare, ti farò domande facili. Per gli U2 ci metto proprio l'emozione personale pure. Ciao. Infatti, infatti, parliamo di U2 fino alle 2 su Radio Kiss Kiss nella notte dei miti e Bergal mi aiuterà a ricordare le tappe più importanti della loro carriera per le canzoni, beh, quello, beh, le segnalerete voi chiaramente. Sporti Paulina Rubio su Radio Kiss Kiss nella notte dei miti, notte interamente dedicata agli U2, se siete degli appassionati, beh, allora questa è la vostra notte, perché vi faremo ascoltare le canzoni più belle degli U2, parleremo della loro carriera e poi cercheremo di coinvolgere coloro che sono stati al concerto di sabato per sentire le loro emozioni, le loro impressioni, perché tanti non sono potuti arrivare a Torino per mancanza di biglietti, magari per mancanza di tempo. Sono tanti gli amici che, a proposito, si stanno prenotando allo 081 631 631 oppure allo 081 546 1212. Tra poco sentiremo la loro voce. E a proposito di numeri, vi ricordo che per segnalarci le vostre canzoni preferite degli U2, quelle che ascolteremo fino alle 2 su Radio Kiss Kiss, potete segnalarle appunto non soltanto chiamandoci i numeri che vi ho appena ricordato, ma anche inviandoci un messaggio SMS al numero 348 66 19 461. Ma tra i tanti che non sono potuti essere sabato sera al delle Alpi di Torino per assistere all'Elevation Tour data italiana degli U2, tra i tanti c'è anche un uomo, un mito, Fergal Kavanagh, che è con noi e che ci aiuterà un po' nel ripercorrere la carriera degli U2, essendo irlandese sei un esperto, no? Va bene, non è possibile essere irlandese e non essere esperto degli U2, perché per noi sono dappertutto. Cioè, abitano a Dublino e si sente di loro ogni giorno, qualcuno la vede in un pub o qualcosa, cioè ognuno a Dublino ha una storia personale degli U2. Io vengo da Cork e ci avrò pure mie conoscenze che conosce gli U2. Io ho conosciuto il cugino di Adam Clayton, anzi il fratello di Adam Clayton. Sono cose che succedono in Irlanda, per noi sono quattro ragazzi e magari, come, non lo so, Pino Daniele a Napoli, per dire, che le sentiamo i nostri sono dei veramente miti nazionali, quindi gli U2 sentiti fino in fondo. Non sono come per esempio Albano e Romina, no? Che non sono famosi, cioè non sono popolari in Italia, però per esempio all'estero hanno grande successo, no? Cioè, spesso dicono nessuno è profeta in patria, mentre invece gli U2 sono anche profeti in patria, volevo fare questo esempio, no? Eh sì, no, è vero, è vero. C'è molto rispetto per gli irlandesi, per gli U2, anche il fatto che continuino a vivere a Dublino. Ci hanno portato un po' la vita internazionale nel nostro paese, che eravamo molto più isolati prima che gli U2 sono diventati questo successo. Sono stati buoni per il paese pure. E tra l'altro devo dire una cosa, ci sono persone che vanno proprio a Dublino magari per visitare l'Irlanda in generale, però fanno sempre capolino sotto casa di Bono e molto spesso lo incontrano che torna dal pub e quindi hanno la possibilità di scambiare due chiacchiere con lui, perché Bono tra l'altro conduce una vita, quando non lavora, non è in tour, è una vita normale, no? Sì, infatti tiene una bar, Temple Bar a Dublino, un hotel anche, spesso si trova lì in questo nightclub, il Kitchen o il Clarence Hotel, a prendere una birra o qualcosa. È molto disponibile a parlare con la gente pure, perché alla fine l'irlandese le piace parlare, conoscere le persone. Una persona molto, molto caldo, Bono. E tutti gli U2, infatti. Quindi sono molto semplici e non si sono montati la testa dopo questo grande successo. Sono arrivati ad essere la rock band più importante e più famosa del mondo. Però quando è che hanno cominciato? Beh, come erano quando hanno cominciato a suonare, quando si sono conosciuti? Wow, tanti anni fa, ormai sarà 23-25 anni fa. Larry Mullen nel 1976 ha messo un annuncio sulla bacheca nella sua scuola, Mount Temple, dicendo che vorrebbe mettere su un gruppo e se c'erano delle persone interessate di contattarlo in questa classe. E insomma hanno contattato un paio di persone, hanno messo su questo gruppo. Hanno detto Adam Clayton, per esempio, solo a guardare quanto era cool, cioè figo, hanno detto questo sarà nel nostro gruppo pure. Insomma, gruppo di ragazzi delle stesse scuole che sono diventati amici. Poi avevano un villaggio tipo virtuale, no, non virtuale, tutto loro vicino a casa, che era chiamato Linkin Park. E da lì sono venuti i nomi tipo The Edge, perché The Edge sempre si metteva vicino al bordo di Lipton Park sul The Edge. E Bono, perché dicevo, c'ho la buona voce. diceva così davvero? Poi buona c'era anche e poi c'era quello buonissimo Gavin Friday, buonissimo amico di Bono, che lavorano insieme tuttora, che sul soundtrack di Moulin Rouge c'è un collaboration tra Bono e Gavin Friday pure. Beh, sono poi queste cose che le scopriremo nel corso della notte, quindi non sparare subito le tue cartucce, Fergal, e sentiamo adesso un po' di musica, no? Abbiamo parlato un po' degli esordi degli U2, allora mi sembra il caso di ascoltare uno dei primi pezzi, tra l'altro in una versione live che ci fa rivivere l'atmosfera di Torino, sempre con le dovute proporzioni, no? Cosa vogliamo sentire? Allora, secondo la recensione, perché ripeto, mi duolo il fatto che non sono stato lì a Torino e dopo, quando parliamo con un ascoltatore, sarò lì a rivivere, a vivere per la prima volta questa emozione. Però alla fine del concerto, quando erano andati gli U2, sembra che sono tornati fuori per fare un altro brano. Bono ha detto One More e hanno fatto questo mitico pezzo che risale ai primi tempi della loro carriera, e questa versione è live in Boston, USA, dal 1981. Facciamo presentare da Bono? This one's called Out of Control. We'll be right back. Name of Love, mitici U2 nella notte dei miti di Radio Kiss Kiss, con Alex che vi parla, con Fergal, l'esperto irlandese chiaramente della mitica band degli U2, con Pepos che al via del vetro si occupa della parte tecnica, e con tanti messaggi che ci arrivano al numero 348-6619-461 di amici che vogliono ascoltare una canzone degli U2 e la segnalano, e tante sono le telefonate invece che si arrivano allo 081-631-631 oppure allo 081-546-1212 di amici che sono stati al concerto di Torino e vogliono parlarci in diretta. Tra poco sentiremo qualcuno. Leggo velocemente qualche messaggio. Siamo due fans sfegatate dei mitici Super U2, Angie e Noemi. Votiamo per One perché è legata a tanti bei ricordi. U2, vi amiamo, kiss a tutti voi. Poi, sarei dovuto andare al concerto, ma venerdì ho fatto un incidente, il colmo. Beh, effettivamente, One è la canzone più bella che ho mai ascoltato. Kiss Kiss Deborah. Poi, ciao, sono Maria da Gaeta. Per favore, mi fate sentire One degli U2. Grazie. Poi, ciao, sono Vale, vi volevo dire che mi date tanta compagnia. Viva Kiss Kiss, siete i migliori. Questo è semplicemente un complimento, grazie. Sono una seguace dei mitici U2. Ogni loro canzone per me è fantastica, allo stesso modo. Ho avuto la fortuna di essere a Torino, pianto dall'emozione. Baci, Romy. Allora, tante le segnalazioni per One degli U2. Sei d'accordo? Cioè, è vero che questa canzone è la canzone più rappresentativa del quartetto irlandese? Certo, è una canzone che ha toccato molto il cuore. Forse se uno pensa agli U2 non è il primo brano di cui pensi come immagine degli U2, uh-huh. Però se uno pensa ai più bei brani degli U2, sì, ci sta sicuramente nelle top 3, sicuramente. Sicuramente tra i primi 3 brani in assoluto. Più belli, più belli. Dolci, più dal cuore pure. Mm. Però sì, magari ne parliamo quando lo posso annunciare, sì, lo posso anticipare. Allora stiamo preparando un mix di tante versioni diverse di One, cover artist, versione dal vivo degli U2. Però credo che la mettiamo un po' più tardi. Beh, certo, siccome è la canzone più votata, già lo sapevamo, abbiamo deciso di farvi un regalino e di farvi sentire One in diversi modi, insomma, in modo tale che non dura soltanto 3 minuti, ma la facciamo durare un po' di più. Va bene? Ottimo. Senti, allora sentiamo un po' un nostro amico che è stato a Torino sabato sera al Delle Alpi, ha avuto la fortuna di assistere al concerto degli U2, si chiama Joe. Ciao Joe, ben arrivato su Radio Kiss Kiss. Allora, raccontaci. Eccoci. Un po', innanzitutto, sei ancora emozionato? Abbastanza, sì, è stato un concerto fantastico. Quindi anche di lunedì sera sei con la mente allo Stadio delle Alpi, insomma la tua memoria ancora ti riporta alle emozioni che hai provato. Com'è stato come concerto? Era il primo concerto degli U2 a cui assistivi? No, non era il primo a cui assistivo, ho già assistito anche, ero a Reggio Emilia per il Pop Mart Tour, solo che questo concerto è stato molto più vero, veramente, è stato molto bene. Ah, ecco, più vero. Sì. Come mai dici questo? Cioè, erano più autentici in un certo secondo senso? Secondo me sì, l'altra volta è stato più spettacolo, anche il maxi schermo gigante, così, molto più spettacolare. Invece questo è stato veramente un gran concerto, la musica era proprio, veniva dal cuore. Allora, Joe, quando Bono ha presentato questo concerto a Londra, avevo detto che stavano ricercando il loro vecchio lavoro, cioè the best rock and roll band in the world, facendo questo spettacolo. Sono riusciti? Secondo me sì, sono riusciti. Sono stati veramente grandi, non pensavo. Allora, quanto è durato? Ma è stato molto lungo perché ha fatto anche 2 bis in più oltre allo spettacolo che doveva fare, è durato quasi 2 ore e mezza, mi sembra. Quasi 2 ore e mezza? Sì. Tu più o meno come eri collocato all'interno dello stadio? Io ero proprio alla transenna in prima fila. Quindi li hai visti proprio da vicino? Sì, molto vicino. Ecco, come ti è sembrato Bono sul palco? Aveva energia? Ti sembrava carico? Sì, era molto carico. Il momento migliore dello spettacolo? Beh, è stato la fine quando hanno fatto questi 2 pezzi che non si aspettava nessuno, che poi hanno fatto la passerella, è stato fantastico, veramente un'emozione, avevo le lacrime. Quindi hanno chiuso in bellezza, sì, diciamo, dopo più di 2 ore di concerto in cui avevano dato il possibile che potevano dare. Certo. Perfetto, allora Gio, noi ti ringraziamo per l'emozione che ci hai trasferito con il tuo racconto. Grazie a voi. Puoi fare un saluto? Certo, puoi fare il saluto che vuoi. Saluto tutti gli amici del Risico e tutti quelli che mi conoscono. Beh, chiaramente ti coinvolgiamo anche nel nostro sondaggio. Qual è la canzone degli U2 che preferisci? Ma non c'è una preferita, però al momento quella che mi sento più che mi sento più vivo è Sunday Bloody Sunday. Ma okay, ti ricordi come Bono l'ha annunciato a Torino? L'ho letto io in giornale. È stato fantastico, sì, che poi ha fatto anche un mix con una canzone di Bob Marley, è stata veramente una cosa strepitosa. Ha fatto Get Up Stand Up, sì. Bravo. E dopo quello che è successo a Genova, quando ho fatto I can't believe the news today, I can't close my eyes and make it go away, deve essere proprio emozionante. È stato emozionantissimo, infatti. Perfetto, grazie Joe. E okay, naturalmente grazie, ti facciamo sentire la canzone che hai richiesto, ok? Grazie a voi ragazzi. Ciao, buonanotte. Senti, grazie, grazie. Allora, diciamo che siamo pronti per sentire una delle canzoni più emozionanti degli U2, d'attualità, legata non so alla storia d'Irlanda, ma anche come è stata adattata sabato sera alla, diciamo, alla guerriglia che c'è stata a Genova, al G8 eccetera. Sentiremo una versione live da Sarajevo, quindi ancora più intensa. Su Radio Kiss Kiss sono di scena gli U2. Un po' anche la serata di sabato, quando a Torino c'erano gli U2 allo Stadio delle Alpi. Stiamo raccogliendo le vostre impressioni, le impressioni di coloro che sono stati al concerto, fortunatissimi, e che ci chiamano allo 081 631 731 oppure allo 081 546 1212. Leggevo che c'erano anche degli slogan molto divertenti allo Stadio delle Alpi, per esempio Bergamo is here for you, cioè Bergamo è qui per voi, o ancora Today is our beautiful day, cioè oggi è il nostro giorno più bello, ecco, i fan si sono veramente sbizzarriti con degli slogan molto interessanti, ancora interessanti. Bono urla sul G8, per esempio, quindi c'era un chiaro riferimento al, diciamo, all'incontro, al summit che si teneva in quelle ore proprio a Genova. Ancora un altro scritto a caratteri cubitali, Bono for Papa, per far capire che appunto Bono è un leader carismatico, apprezzato soprattutto per i messaggi che lancia, messaggi di fratellanza, non ultimo il messaggio per così l'annullamento del debito dei paesi ricchi verso i paesi poveri, no, in realtà è il debito che i paesi poveri hanno nei confronti dei paesi ricchi, no? Infatti è stato a Genova venerdì sera con Jovanotti e con Bob Geldof per parlare con i leaders del G8 di questo fatto, e dice che stanno sulla buona strada, però devono continuare a battere. Veramente Bono si sta impegnando molto personalmente per questa cosa. Tra l'altro è molto strano pensare che comunque in qualche modo proprio coloro che hanno protestato contro la globalizzazione hanno in un certo senso Bono come riferimento, quando poi nel 1997 Bono e gli U2 hanno inciso Pop e hanno portato in giro il Pop Mar Tour, in cui c'era in un certo senso un po', non so se era ironico, un chiaro riferimento alla globalizzazione, alle catene così del tipo McDonald's con questo simbolo, e anche forse proprio il concerto, no? Era un eccesso del pop e del mercato, no? Mm-hmm. Forse loro l'hanno vissuto in maniera critica con questa visione eccessiva, no? Dei tempi moderni così, no? Infatti è una cosa da pensare, non ci ho mai pensato su questo, però una buona teoria. Forse si stavano presentando un po' come un prodotto, perché ormai erano un prodotto in un certo senso, e volevano presentarsi come questo gruppo disco oppure, e era un po' la moda di quei tempi, i primi anni 90, forse. Però adesso hanno rinunciato a questo. Infatti il nuovo album si intitola All That You Can't Leave Behind, per riferire a tornare alla loro radice. Certo, quindi un ritorno in qualche modo alla musica, all'essenza della musica. Poi un'altra cosa che mi veniva da chiederti, Fergal, era diciamo un po' la genesi del nome, cioè come è nato U2. Ci sono varie teorie, ci sono varie spiegazioni. Infatti, allora U2 è stato suggerito dal loro amico Steve Averill, che era il designer che ha fatto quasi tutti gli album degli U2, i copertini l'ha disegnato. E U2 può essere anche te, per coinvolgere la gente, ma è anche il nome di un aereo della guerra, se non sbaglio. Sì, un aereo con cui sono state sganciate, se non sbaglio, delle bombe atomiche in Giappone, insomma, se non vado errato. Wow. Quindi un chiaro riferimento proprio all'attualità, alla storia. Beh, chi lo sa, magari. E prima di questo il loro nome era The Hype. Che sarebbe The Hype, come si spiega The Hype? Tutte quelle cose intorno al prodotto, tipo la pubblicità, eccetera. Quindi forse pure il Pop Mart era un tour del The Hype, pure il prodotto. Perfetto. Allora, noi adesso sentiamo un altro pezzo, però prima volevo ricordarvi che potete continuare a segnalarci le vostre canzoni più belle, che vi faremo ascoltare fino alle 2 al numero 348-66-19461, quindi inviandoci un messaggio SMS. Fergal, cosa abbiamo deciso di passare in base anche alle segnalazioni dei nostri amici che ci ascoltano da casa? È vero, allora quando gli U2 hanno fatto Rattle and Hum, sono andato in America nel 1988 a scoprire le radici del rock and roll, e sono andati a Sun Studios insieme a The Memphis Horns a registrare un bellissimo tributo a Billie Holiday, che si intitola Angel of Harlem, ed è un bel pezzo di rock and roll che hanno fatto, che ascoltiamo su Radio Kiss Kiss nella notte dei miti dedicata proprio agli U2. We'll be right back. sbagliato, però a spostarli proprio per festeggiare St. Patrick's Day, però una bella cosa. Poi c'è da segnalare che Bono in America, quando c'era questa crisi della afta, l'afta epizootica, spieghiamo che era un'infezione che ha colpito le pecore, gli ovini in Irlanda, comunque in tutto il Regno Unito, in Irlanda, in Gran Bretagna. E fammi capire, a St. Patrick's Day che si fa? Si mangia questo tipo di carne, quindi per evitare, diciamo, il contagio, no. non si poteva mangiare questa carne, quindi hanno spostato la festa? Sì, non era solo per le carni, era per non spostare la gente verso delle centri delle città, le persone dalle paese intorno alle città, giusto, perché infatti lì c'era l'agricoltura, agriculture, e c'era agricoltura, sì. E quindi portando tutte queste persone portava magari l'infezione. Infatti è vero, c'era il contagio dovuto proprio allo spostamento delle persone da una zona all'altra, anche dell'Irlanda. E quindi hanno spostato anche la festa, diciamo, temporalmente. Sì. Poi Bono, quando suonavano il U2 in America, diceva sul palco che con l'afta non c'era nessun problema, che l'Irlanda era a posto per i turisti, quindi un po' ci ha fatto l'ambasciatore di casa sua. Senti, io a proposito del concerto dell'Elevation Tour, no? Hanno venduto in pochissimo tempo i biglietti della data irlandese, no? E hanno messo un po', c'è stato un po' di crisi con il governo irlandese. Tu sai qualcosa di preciso di questa notizia, che Bono ha dovuto in qualche modo aggiungere delle date e gli ha chiesto proprio il governo irlandese? È vero che comunque sono stati molto, non so, io adesso non ricordo bene com'è andata la storia. Allora, praticamente questo evento che fanno loro è ad un posto di nome Slane Castle, lì ci suonano sempre dei grandi rock stars, tipo David Bowie, Bruce Springsteen, i REM. Allora sarebbe stato, i Rolling Stones anche da segnalare. Poi sarebbe stato tipo il 20° anniversario da quando gli U2 ci hanno suonato come spalla a Tin Lizzy nel 81, mi pare. E quindi hanno messo su questo concerto. Allora, i biglietti sono stati venduti in 40 minuti, mi pare, 80.000 biglietti, incredibile. Allora Bono ha detto, io vorrei fare un altro concerto, una cosa mai pensato, si fa un concerto lì all'anno e basta. E allora lui è andato dal governo, gli ha chiesto eccetera, l'ha avuto. Bono ha sempre quello che vuole. Ah, ecco. Quindi i biglietti sono andati in vendita al momento in cui è stato annunciato o confermato il concerto, cioè proprio in quel momento sono andati in vendita i biglietti e hanno venduto 80.000 in 45 minuti di nuovo. Incredibile, davvero un successo senza precedenti. E adesso basta con le parole, basta con le chiacchiere, sentiamo un po' di musica. Abbiamo deciso di farvi ascoltare proprio dall'album pop che abbiamo tirato in ballo parlando della globalizzazione, una versione dance di Mofo, giusto? Uno dei pezzi più diciamo più arditi e coraggiosi dell'album pop, in cui gli U2 si sono espressi nella tecnica, nell'elettronica, giusto? Infatti loro hanno sperimentato molto e sono andati verso questo genere di danza e techno. E insomma, magari molte persone che sono abituati a sentire gli U2 come quelle che cantano questi bei brani, eppure questo Anthems, saranno sorpresi a sentire quanto è dance questo, come andrebbe bene nel discoteco. Quindi ascoltiamo, it's the Funk Force Mix. Band del mondo che era in Italia sabato sera e che questa sera invece è a Zurigo e anche domani si esibirà a Zurigo per due date del Elevation Tour. Ma prima tu avevi detto non capisco perché hanno fatto questa cosa, una in Italia e due in Zurigo. Sì. Sono d'accordo con te, è pazzesco, però per qualche motivo hanno scelto in tutto il tour mondiale di suonare a Torino e a Slane vicino a Dublino per più di 70 persone, cioè tutti gli altri concerti sul tour sono più intimi. Uh-huh. E dicono addirittura che forse l'anno prossimo torneranno a fare un altro tour, però questo mirato sugli stadi del tutto il mondo invece delle arene. Quindi speriamo che avremo la possibilità di rivederli. Beh, certamente, perché tantissimi non hanno avuto il tempo di comprare i biglietti perché sono stati esauriti in pochissimi minuti, in pochissime ore. E dicevo, no, in proporzione gli italiani sono di più degli svizzeri. E quindi forse era meglio fare un paio di date in Italia e una soltanto a Zurigo. Beh, questa è la mia opinione, chiaramente molto di parte. Infatti, però il fatto è che gli U2 sono molto ma molto amati in Italia. Eppure The Edge le dice, cioè, per i nostri fan italiano volevamo fare qualcosa grande, però non capisce nemmeno lui, ha detto, perché è andato così solo una data in Italia. Quindi insomma gli due a questo punto sono, diciamo, non c'entrano per questa scelta, ecco, è l'organizzazione evidentemente che ha imposto questa unica data italiana. Avremo modo di parlarne fino alle due. Adesso abbiamo scelto un altro pezzo, giusto? Eh sì, infatti questo pezzo è stato scritto come un tributo all'amico di Bono, Michael Hutchins, quello, il cantante dell'NXS, che si è suicidato. E allora viveva un momento un po' brutto e quindi Bono gli ha scritto questa canzone, Stuck in a Moment You Can't Get Out Of. Io ho avuto l'opportunità pure di intervistare Brian Molko, il cantante del Placebo, e lui mi ha detto che la canzone Stuck in a Moment You Can't Get Out Of è stata molto un'ispirazione per lui quando ha voluto smettere di bere a farsi come faceva lui. E quindi il fatto che un gruppo come il Placebo riconoscono gli U2 nell'anno 2000-2001, lo riconoscono come sempre i great, è una cosa veramente onorevole, cioè molto importante. Sì. Noi sì. Tra poco sentiamo questa canzone, ma prima vediamo un po' che ore sono. E l'una in punto su Radio Kiss. Mitici U2, ancora buonanotte a tutti da Alex che vi parla, da Fergal che qui è accanto a me. Ciao Fergal. Hi Alex. E ancora buonanotte da Pepos che è al di là del vetro ad occuparsi della parte tecnica. Tre ore molto ricche, molto intense. Gli U2 meritano questo ed altro, giusto Fergal? Tra l'altro meritano il tuo straordinario, visto che tu sei in onda già dalle 6 e smesso alle 10 e poi adesso dalle 11 fino alle 2, insomma, mi farai compagnia, no? Non potevo mancare a questo punto. complimento. No. E sono anche onorato che mi hai considerato per questa puntata. Insomma, io parlo degli U2, no? Non chiedo una consulenza a Fergal, almeno non chiedo la sua presenza, visto che Fergal è irlandese. Tra l'altro, tra un po' ci racconterà un aneddoto legato proprio ad una canzone degli U2 che spiega perché Fergal è qui in Italia. Eh sì, stavo pensando un po'. Sì, per, non dirlo adesso, però. No, stavo pensando un po' per il fatto che gli U2 sono cresciuto con loro. Quando noi abbiamo parlato di Bob Dylan e abbiamo parlato di The Beatles, il loro lavoro migliore rispetto a Bob Dylan e anche tutto il lavoro dai Beatles erano già lì da guardare come una cosa globale, ma con gli U2 sono cresciuto con loro e loro stanno cambiando sempre, quindi un po' sono dentro emozionale un po' di più che con gli altri artisti con cui abbiamo parlato di mitichi. Quindi cioè quando tu ascoltavi i Beatles erano già dei miti, no? Invece gli U2 sono diventati dei miti mentre tu crescevi, no? Eh sì, io ci stavo dall'inizio, cioè io mi ricordo quando suonavano in radio, era tipo la prima volta che suonavano in radio nazionale, è stato... Vabbè, noi non abbiamo pensato niente al momento, no? Mm-hmm. Perché che pensavamo un altro gruppo, però sono diventati dei miti. Fammi capire, quindi tu ricordi quando gli U2 erano una band esordiente? Eh sì, allora loro quando hanno registrato il loro primo album avevano, io avevo 11 anni, che ok, è un po' piccolo per apprezzare queste cose, però il fatto che loro erano sul televisore e suonavano e stavano sulla radio, sì, ero presente. Poi più che crescevo, 13-14 anni, e War usciva e io ci stavo dentro quando Sunday Bloody Sunday era un grande inno, eccetera. Sì, sono come tutti gli irlandesi di età mia, guarda. Quando sono diventati, diciamo, la band più amata al mondo, no? Ti sei sentito orgoglioso di essere irlandese come gli U2, eh? Sì, c'è stato pure un po' di gelosia, però. Sì. Sai questa cosa, tipo, ma io ho cresciuto con loro e adesso tutti, cioè un po' quando uno diventa geloso del suo gruppo preferito, suo mito. Cioè hai dovuto in qualche modo condividerlo con altre migliaia, milioni di persone, va bene. Sì, però non più, voglio dire, adesso apprezzo che sono veramente per tutti YouTube. Ecco, sentiamo un po' Mirko, che è stato sabato al concerto di Torino, ma ha visto anche altri concerti. Ciao Mirko, ben arrivato su Radio Kiss Kiss. Ciao ragazzi. Allora, tu sei stato sabato tra i fortunati che hanno beccato il biglietto, giusto? Ma quanto tempo prima l'hai acquistato? Il biglietto io l'ho acquistato venerdì pomeriggio. Quindi il giorno prima. Prima del concerto. Ma com'è possibile? C'è gente che non l'ha trovato, che veramente dice di aver visto biglietti esaurirsi in pochi minuti, in poche ore dalla messa in vendita, non so, quando è stato, ad aprile, a maggio. Io sto mangiando le mani qua. Beh, probabilmente io sono stato più fortunato degli altri, però venerdì pomeriggio ho trovato il biglietto e insieme a un'amica sono andato a Torino a vedere questo grande evento. Ma scusami, non erano 70.000, 71.000 posti esauriti? Eravamo 70.000, almeno così dicono male. Infatti. Io non li ho contati. Ma però... tu che c'eri, insomma, hai visto lo stadio stracolmo? Lo stadio era veramente pieno, però nel prato in fondo ancora gente ce ne stava. Ah, ecco, quindi c'era, diciamo, qualche angolino libero. Gli angolini c'erano. Senti Mirko, tu cosa hai da raccontarci riguardo proprio a questa serata? Come ti è sembrato questo concerto, visto che poi ne hai seguiti anche altri? Sì, io ho visto gli ultimi tre tour in Italia degli U2 e ti dirò che sono stati grandi. E tu prima parlavi di messaggi. Sì. Sono stati, diciamo, due momenti veramente belli in Sunday Bloody Sunday, quando lui ha detto la violenza non è giusta, la violenza nelle strade di Genova non è giusta, la violenza nelle strade dell'Irlanda del Nord non è giusta. E lì, diciamo, si è scagliato contro tutto quello che stava succedendo nelle strade di Genova. Quindi ancora una volta Bono ha fatto capire che è il leader di una band ispirata non soltanto, diciamo, dal rock ma anche dai temi sociali, no? Diciamo che loro hanno basato tutta la loro vita su questi temi, a partire dalla guerra, a partire dall'amore, dal rapporto tra le persone. È vero, infatti dai primi album si socievano dell'Amnesty International scritto, esatto, su ogni copertina dell'album. Poi anche perché venerdì era a Genova a parlare con queste persone più importanti degli altri, diciamo, però Senti, dimmi. Scusami, ti interrompo. Come li hai visti cambiare? Diciamo, tu hai cominciato a vedere un concerto degli U2 nel 93, giusto? Esatto, come sono cambiati dal 93 al 2001, a tuo avviso? Beh, nel 93 sono stati, secondo me, è stata la loro esibizione migliore, anche perché hanno praticamente fatto Acton Baby, che è stato uno dei loro album più belli, assieme a Joshua Tree. Sono rimasto deluso dal concerto di Reggio Emilia, perché era troppo esagerato dal punto di vista proprio delle immagini, dei laser, di questo schermo, di tutto quello che era proprio la comunicazione che volevano dare. Magari era anche ricercato questo, però questo concerto è stato veramente mitico, perché loro erano loro e con il pubblico, con queste 70.000 persone. Tra l'altro il pubblico è stato veramente da complimentare, perché siamo stati grandi insieme a loro, perché li abbiamo fatti ritornare sul palco e fare questa under control, fargli fare 2 ore e 40 di musica. Insomma, è stato veramente un concerto interattivo, pubblico e U2 sul palco, ed erano solamente loro che suonavano e noi che ascoltavamo, che ballavamo, che cantavamo insieme a loro. Non c'erano laser, non c'erano niente altro che la loro musica e noi che ascoltavamo, insomma. Bello, bello quello che ci sta raccontando. Quindi vi siete meritati anche, diciamo, la loro energia migliore e anche dei bis finali. Esatto, veramente c'è stato questo finale Pride, loro che, quando tutti abbiamo cominciato a cantare il ritornello insieme a loro, sono tornati sul palco, hanno rifatto questa passerella e poi hanno detto Bono One More, e tutti sono scoppiati quando hanno rifatto anche questa canzone, che tra l'altro io non conoscevo, però eravamo su un altro pianeta. È un po' come la canzone Elevation, eravamo proprio in quella situazione lì, insomma, veramente da pelle d'oca. Bello, bello, un po' come ai tempi di Live at Red Rocks, quando il gruppo suonavano Forti alla fine, e quando loro sono scesi dal palco la folla continuava a cantare How long, how long must we sing this song, e poi si vede nel video che Bono è tornato senza strumenti, senza elettrificazione, come si dice, elettrico, a cantare con la folla. Emozioni, vere emozioni. Mirko, veramente un'emozione. Noi ti ringraziamo per averci raccontato questa emozione. Chiaramente non è uguale a viverla, però ci siamo molto vicini, grazie al tuo racconto. E buonanotte, Mirko. Posso fare un saluto? Certo. Io volevo fare gli auguri di cuore a Michele, che stasera compie 25 anni. Auguri a Michele, anche da parte nostra. Ciao. Ciao ragazzi, grazie. Buonanotte, Mirko. Ciao. Allora, noi stiamo per ascoltare un'altra canzone, un'altra versione live bellissima di Mr. Aiello, cantata proprio con Pavarotti. In Pavarotti and Friends, ma a quel Pavarotti and Friends c'era anche Fergal, che grazie a quell'esibizione è rimasto in Italia. Posso dirlo questo, no? Perché sì. Raccontaci un po' questo aneddoto, che è molto bello. Allora, la verità è che io avevo già vissuto in Italia sono emozionato. Sì, lo so, perché adesso stiamo parlando della tua vita un po' in qualche modo. Allora, io ho già vissuto a Firenze nel 1992, poi sono andato via dall'Italia e ci sono tornato nel 1995. Sono andato, anzi 94, e sono andato a Milano, e stavo lì a Milano e volevo solo trovare un amico, e volevo andare via a trovare lavoro a Praga come insegnante di inglese. E invece sono uscito con un paio di amici, e loro hanno detto: ma hai visto che gli U2 suonano con Bono e The Edge, suoneranno con Pavarotti a Modena? Io ho detto: ma quando? Tra 15 giorni. Ho detto: ci devo andare. E per quello ho deciso di rimanere in altro paio di settimane in Italia, e dopo di quello ho detto: ormai sto qua, parlo un po' della lingua, conosco un paio di persone, rimango in Italia, ed eccomi qua. Quindi dobbiamo proprio a quell'esibizione il fatto che Fergal è rimasto, poi è venuto anche qui a Radio Kiss Kiss, una delle canzoni più belle degli U2 nel progetto Passengers, insieme a Pavarotti, Mr. Aiello. Lo ascoltiamo in versione live su Radio Kiss Kiss nella Notte dei Miti. Thank you. Kiss nella notte dei miti. E ancora ciao a tutti da Alex, qui altro buonanotte, bentrovati se vi siete sintonizzati soltanto da poco. Rimarremo insieme fino alle 2 a celebrare i mitici U2 insieme a Fergal, che è qui accanto a me, direttamente dall'Irlanda, per parlarci di questo gruppo mitico irlandese. Tra l'altro devo dire che questa sera è venuto con gli occhiali da sole alla Bono. Devo fare l'impressione di Bono per entrarmi nel spirito delle serate, no? Beh sì, diciamo che fai una certa impressione, adesso non so di che cosa, però è una battuta chiaramente. Devo dire, arrivano molte telefonate allo 081-631-631 di persone che non solo votano la loro canzone preferita degli U2, ma ci raccontano come è andata a Torino il concerto, unica data italiana dell'Elevation Tour di sabato scorso. Ma arrivano anche messaggi SMS al numero 348-66-19461. Vorrei leggerne qualcuno perché sono messaggi molto carini. Per esempio, sono Enzo d'Aversa, io voto One perché la canzone simbolo dei Magnifici 4 d'Irlanda, siete grandi, ciao. Questo mi sa che l'avevo già letto. Andiamo avanti, ecco qua. Ciao, sono Stefania della provincia di Latina, vorrei ascoltare Running to Stand Still perché la trovo stupenda tra le tante. Grazie. Running to Stand Still è bello, molto bello, che è stato scritto del problema delle droghe a Dublino. quindi veramente un bel pezzo. Poi One è la canzone d'amore più bella che esista, sia nel bene che nel male. Li adoro e vorrei, e voi della radio siete eccezionali. Ecco, notte Anna dalla provincia di Salerno, grazie Anna anche per i complimenti. Gli U2 sono l'apoteosi. Per caso Maria di Bergamo ti ha scritto un sms prima: se la bionda di Carobbio, by boo, Alex sei mitico, grazie. Addirittura la gente qua manda messaggi e si comunica tramite sms con altri che inviano messaggi. Poi Fergal e Alex, un grande binomio, bello questo. Ovviamente non chiederò brani, così forse lo mettete. Manu, evidentemente Manu adora tutto quello che gli U2 hanno fatto, senza, per non chiedere un brano. In realtà noi ascoltiamo i pezzi più votati, diciamo, no? Grazie agli sms. Poi voi appunto voterete al numero 3486619461, e tra l'altro voteremo poi, diciamo, segnaleremo la canzone più votata, e quindi in un certo senso proclameremo la canzone regina, chiaramente One, secondo me. Vabbè, ma possiamo dirlo già da adesso. Bello, però from the album The Joshua Tree, proprio un periodo esordente per gli U2. With or Without You, U2 su Radio Kiss Kiss. In your side, I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate on a bed of nails, and I'll wait without you. Tanti messaggi che abbiamo ricevuto a partire già dalle 23 di questa sera al numero 3486619461 di amici che hanno votato canzoni preferite, le loro canzoni preferite degli U2, che sono stati al concerto. Ma ho ricevuto anche delle email all'indirizzo alex@kisskissnetwork.it. Volevo salutare Lori, volevo salutare Rita di Bologna, che ci scrive che appunto non è riuscita a vedere gli U2 a Torino in quanto, pensate, incredibile ma vero, le hanno rubato i biglietto. Oh no, che dolore. Davvero una cosa terribile. Rita, comunque grazie per questa mail, adesso finirò di leggerla con tranquillità. Adesso noi vogliamo, mi sono rifatto un po' i messaggi che abbiamo ricevuto, no? Volevo ringraziare tutti coloro che hanno interagito, che hanno partecipato a questo, questa puntata speciale di Mythics che è dedicata interamente agli U2. La maggior parte dei messaggi richiedeva One e quindi abbiamo deciso di premiare tutti coloro che volevano ascoltare il One con una specie di medley, giusto? Bellissimo questo medley, però prima posso raccontarti una storia dall'Irlanda a proposito di One? Ma certo, certo. Allora, quando Octon Baby è uscito, la radio irlandese aveva fatto un concorso lunedì mattina, la mattina dell'uscita dell'album, per una persona di telefonare a cantare qualsiasi brano degli U2 e vincevano un premio, quello che era il più bravo. Hanno chiamato in tanti, chiaramente, cantando tutte cose da The Joshua Tree, eccetera, Unforgettable Fire, cioè brani precedenti nella storia degli U2. Però questo tipo da Dublino ha telefonato e ha fatto una versione di One, praticamente non avevo mai sentito il brano prima di mezzanotte la sera precedente, perché è andato a comprarlo a mezzanotte in punto. Uh-huh. L'ho ascoltato tutte le notte e poi il giorno dopo, la mattina, è stato capace di cantare questa versione bellissimo di One. Allora Bono stava ascoltando questo a casa e lui ha telefonato alla radio per fare i complimenti e i due hanno chiacchierato tra di loro, questo fan e Bono in onda in radio. Bello proprio. Ma, insomma, straordinario. Evidentemente One è stata la canzone che lo aveva subito colpito, tanto che era riuscito ad impararla nel giro di una notte e ha colpito tantissime persone. Ricordo, racconto un mio aneddoto: quando sono arrivato qui a Radio Kiss Kiss, era il novembre 99, c'era la canzone del millennio, c'era una gara tra le canzoni più belle del millennio e One era tra le più votate ed è arrivato, se non sbaglio, al primo o al secondo posto di questa competizione che ha messo insieme veramente i pezzi più forti di questo millennio. Forse al secondo posto, Pepo se lo ricorda, il primo c'era Imagine di John Lennon, quindi insomma abbiamo capito che è un grande pezzo quello che stiamo per ascoltare. Allora, quali sono le versioni che ascolteremo? Allora io annuncerò solo il primo perché voglio che gli ascoltatori indovinino un po' e poi dopo le disannunciamo magari. Ok, questa prima versione è sempre dal concerto per War Child a Modena il 12 settembre 1995. Non sono gli U2, sono Bono, The Edge e Brian Eno insieme con l'orchestra di Pavarotti and Friends. È bellissimo. Poi ascoltiamo un'altra quattro versioni, sia cover che versione degli U2. One di scena su Radio Kiss Kiss nella notte dei miti. Is it getting better? Or do you feel the same? Would it make it easy on you now? You got someone to blame. You said one love, one life, it's one. Come here to play Jesus.